studio di funzione, 1. Schema riassuntivo, i passi per lo studio del grafico di una funzione. 1. Determinare il dominio di della funzione. 2. Studiare la parità, cioè chiedersi se la funzione è pari, e quindi a grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate. Dispari, e quindi a grafico simmetrico rispetto all'origine degli assi. Oppure né pari né dispari. Nel caso la funzione sia pari o dispari, nelle varie fasi dello studio potremo e dovremo tenere presente la simmetria riscontrata, potremmo addirittura decidere di studiare la funzione soltanto per x maggiore di 0 e poi completarne il grafico per simmetria. 3. Determinare le intersezioni con gli assi. Per l'eventuale intersezione con l'asse verticale si porrà x uguale 0. Se, ben inteso, la scissa 0 appartiene al dominio, e si ricaverà il corrispondente valore di y. Per le eventuali intersezioni con l'asse orizzontale si dovrà risolvere l'equazione f di x uguale 0. 4. Studiare il segno della funzione mediante la disequazione f di x maggiore di 0. 5. Calcolare i limiti ai confini del dominio. Così facendo si troveranno anche, se esistono, gli asintoti verticali ed orizzontali. 5. Ricercare gli eventuali asintoti obliqui. Osserviamo che, evidentemente, avrà senso ricercare un eventuale asintoto obliquo per la funzione y uguale f di x soltanto se si è constatato che la funzione tende a infinito. Quando x tende a infinito. 6. Calcolare la derivata prima f prima di x. Risolvere l'equazione f primo di x uguale 0 per trovare i cosiddetti punti stazionari. Massimi, minimi, flessi. Studiare il segno della derivata prima con la disequazione f primo di x maggiore di 0. Stabilendo così gli intervalli in cui la funzione è crescente, y primo maggiore di 0 implica funzione crescente. Decrescente, y primo minore di 0 implica funzione decrescente. E determinando i punti di massimo relativo e minimo relativo interni al dominio, nonché i punti di flesso orizzontale. A volte la risoluzione della disequazione f prima di x maggiore di 0 è troppo complicata. In tal caso, si può valutare se sia il caso di rinunciare a tale disequazione ricorrendo alla risorsa del metodo della derivata seconda o delle derivate successive. 7. Calcolare la derivata seconda. Risolvere l'equazione f seconda di x uguale 0. Quest'ultima fornisce, in generale, le ascisse dei punti di flesso, ricordiamo però che non tutti i punti in cui si annulla la derivata seconda risultano poi di flesso. Studiare il segno della derivata seconda, mediante la disequazione f seconda di x maggiore di 0. Tale studio permetterà di stabilire gli intervalli in cui la funzione è concava e quelli in cui è convessa. Derivata seconda maggiore di 0 implica funzione concava. Derivata seconda minore di 0 implica funzione convessa. Ciò darà indicazioni utili sull'andamento della funzione e consentirà di chiarire la natura di quei punti nei quali si annulla la derivata seconda. Questi possono essere di flesso, ma anche non esserlo. A volte la risoluzione della disequazione derivata seconda maggiore di 0 è troppo complicata. In tal caso può valutare se rinunciare a tale disequazione e ricorrere alla ricerca dei flessi con il metodo delle derivate successive. Se si sono riportati in un sistema di assi cartesiani tutte le proprietà via via scoperte della funzione studiata, ora essa apparirà tracciata sul medesimo grafico.